Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Simone Mariani e Sabelli, quattro generazioni per i formaggi italiani, di Alessandra Scaglioni. Come molte storie aziendali, anche quella della Sabelli, produzione casearia, inizia negli anni 50 con Archimede Sabelli. Inizia tra il Molise e le Marche, legata alla lavorazione del latte e all'allevamento. Ma la tradizione familiare inizia ancora prima, nel 1921, quando il capostipite Nicolangelo Sabelli avvia una piccola attività casearia nel Molise. Oggi Sabelli è uno dei primi player nazionali del settore caseario. È guidata dalla famiglia, dove è ancora presente il nonno Archimede, e gli amministratori delegati sono i cugini Angelo Galeati e Simone Mariani. Inizia nel dopoguerra, esattamente quando mio nonno Archimede Sabelli, dopo le traversie della guerra, fu prigioniero in Germania in quegli anni, di ritorno senza risorse, di fatto decide di cercar fortuna trasferendosi dal Molise, da Boiano, esattamente località dove è nato e cresciuto e dove dal padre, il mio bisnonno, aveva acquisito la capacità di trasformare il latte e quindi di realizzare prodotti caseari, e in cerca di fortuna si trasferisce nelle Marche. Nelle Marche trova un contesto un pochino più florido rispetto a quello del Molise, soprattutto con una presenza di latte maggiore di quella che appunto in Molise in quegli anni esisteva, e quindi inizia prima come dipendente di una piccola, di un micro caseificio locale, finché poi questo caseificio ha difficoltà e quindi lui, impegnandosi con il titolare a pagare delle quote di affitto per gli anni successivi, diventa un microimprenditore. Nelle Marche l'azienda cresce legata al territorio, cambiando anche le caratteristiche delle aziende agricole che operavano in quegli anni. Di lì, pian piano, per piccoli passi, l'azienda ha iniziato a crescere. Un aspetto fondamentale su cui lui ha sempre puntato è quello di un legame fortissimo con i produttori di latte del territorio. Quelli erano anni in cui nella regione Marche non c'era produzione di latte in maniera, diciamo, sistematica, ma la razza marchigiana, che è una razza tipica, chiaramente autoctona, del centro Italia, era una razza predisposta esclusivamente alla lavorazione dei terreni. Quindi ci fu un lavoro fortissimo da parte di mio nonno per convincere gli agricoltori ad allevare capi bovini, non solo per utilizzarli in agricoltura, ma anche per produrre latte, dunque formaggio, dunque una diversificazione dei redditi dell'azienda agricola. Nei primi anni si tratta di una piccola attività gestita dai nonni che producono e vendono. Poi arrivano i collaboratori e si allarga il mercato di riferimento, conquistando nuove regioni e conquistando i mercati in anni in cui la mozzarella era ancora sconosciuta nelle regioni del centro-nord. Beh, i passaggi fondamentali, almeno per oltre un decennio, l'azienda era per tutti gli anni 50 in mano a mio nonno, a mia nonna, che in due, in qualche modo, uno si occupava di produrre, l'altra di vendere i prodotti in uno spaccio aziendale, quindi in un'attività che era davvero un'attività super familiare. Nel tempo questa attività con la qualità ha iniziato a crescere, un modesto numero di collaboratori che lo supportassero nell'attività sia della raccolta del latte. Lei immagini che nei primi anni mio nonno durante la notte raccoglieva il latte nelle aziende agricole, durante il giorno lo trasformava e nel pomeriggio andava con il furgoncino o con una piccola moto a vendere il prodotto finito. Quindi sono stati anni di grandi sofferenza, e poi la famiglia si è allargata all'interno con la nascita delle due figlie, Maria Grazia e Gioconda, rispettivamente mia madre e mia zia. L'attività poi ha iniziato, come dire, a svilupparsi ulteriormente, oltre che nelle Marche, in tutto il centro Italia. La logistica in quegli anni era particolarmente disagevole, quindi si spediva il prodotto, ovviamente non c'erano le tecnologie anche e la catena del freddo di oggi, si utilizzava molto la ferrovia. In ogni modo devo dire che si è sempre puntato su fare un prodotto di grande qualità, e questo è stato riconosciuto dal mercato. Ci siamo avvicinati a mercati importanti importanti come quello di Roma, ma soprattutto quello del, diciamo, centro-nord Italia, in particolare l'Emilia-Romagna, le Marche, l'Umbria, sono state zone in cui l'azienda ha trovato un riscontro importante. L'obiettivo era quello di arrivare in tutto il paese. Oggi il percorso si è realizzato. Sabelli è una SPA da 100 milioni di euro di fatturato, guidata da 3 generazioni della famiglia. Il gruppo conta 300 collaboratori diretti, oltre all'indotto di 200 aziende agricole del centro Italia, che producono 100.000 litri di latte fresco al giorno. Devo dire, mio nonno era forte della sua tradizione da uomo del sud, del Molise, quindi portava con sé una tradizione originale nella trasformazione dei latticini. Aveva però un'idea, una visione importante, è ancora oggi, ha 90 anni, ma è ancora oggi un visionario, crede fortemente nel valore del prodotto e nella possibilità che il suo prodotto potesse arrivare nelle tavole di tutta Italia. Quindi io fin da piccolino respiro da parte sua questo tipo di approccio, la voglia di continuare a investire, a crescere, a reinvestire continuamente i proventi e gli utili dell'attività aziendale nella crescita dell'azienda. La nostra è un'azienda familiare che oggi è alla 4ª generazione, conviviamo felicemente tra mio nonno, che ovviamente è ormai persona matura, ha 90 anni ma è ancora interessato e partecipe delle vicende aziendali. E la famiglia, la mia, mio padre, mia madre, mio zio e mia zia, che ricoprono ruoli all'interno dell'azienda, fino a che, ecco, oggi la 4ª generazione, quindi il sottoscritto, mia sorella Francesca, che è tecnologa alimentare, quindi segue la parte produttiva, in particolare l'area della qualità, dell'ambiente e tutte quelle che sono ovviamente tutto il processo di controllo della qualità intorno ad un'azienda alimentare, e mio cugino Angelo, che è responsabile vendite e che quindi contribuisce, che tutti noi contribuiamo a dare seguito, diciamo, a questo tipo di attività. Il numero dei produttori che forniscono la materia prima è cresciuto, ma la struttura del rapporto tra l'azienda e i suoi fornitori rimane. Oggi, per esempio, noi continuiamo ad acquistare latte da 250 aziende agricole provenienti dalle Marche, l'Abruzzo, l'Umbria e parte del Lazio. Negli anni è stato un percorso di crescita continuo quello del numero dei produttori, ed è un qualcosa a cui appunto la nostra azienda è ancora molto molto legata. Quindi questo tema di filiera è qualcosa che per noi è nel DNA dell'azienda, non è qualcosa che abbiamo vissuto come un'imposizione dall'esterno, dall'Unione Europea. Crediamo fortemente nella tracciabilità ed abbiamo con queste 250 aziende agricole un rapporto diretto. Tecnicamente si dice che l'azienda Sabelli è primo acquirente di questi produttori, quindi il rapporto con loro non è intermediato da cooperative o altre organizzazioni di coordinamento, ma abbiamo un rapporto diretto ottimo, direi costruttivo, con questi agricoltori. Sede produttiva ad Ascoli Piceno, nelle Marche, e sedi distributive in tutta Italia. Il gruppo Sabelli è strutturato in 2 macro divisioni, una parte produttiva e una parte distributiva. Complessivamente il gruppo sviluppa un giro d'affari di oltre 120 milioni di euro e sono 300-350 i collaboratori che nelle diverse filiali dell'azienda collaborano con noi. Nel settore caseario e in particolare in quello dei freschissimi siamo sicuramente tra i primi player a livello nazionale. La concorrenza è una concorrenza, come in quasi tutti i settori, molto forte, dove i player sono internazionali oltre che nazionali, ma devo dire che ci siamo sempre difesi con forza e continuiamo sui valori, ecco, della tradizione da un lato, della qualità ma anche della capacità di innovare, a difenderci, ad competere con energia sul mercato. I canali distributivi dei prodotti sono diversificati e vanno dalla grande distribuzione agli esercizi commerciali e al canale della ristorazione. La Sabelli opera in tutti i canali, quindi i clienti di massima importanza per noi sono chiaramente i clienti di grande distribuzione, ma da sempre abbiamo una rete molto capillare di distributori grossisti sul territorio, i quali a loro volta servono il dettaglio tradizionale, normal trade, ma anche un canale che negli ultimi 10 anni è diventato per noi fondamentale, che è quello della ristorazione, È ovvio che le mozzarelle sono particolarmente utilizzate in un sottopoi settore, che è quello delle pizzerie, che in Italia hanno ovviamente una dimensione importantissima. Ed è per questo che negli anni abbiamo anche sviluppato dei segmenti all'interno del nostro diciamo paniere di prodotti, orientati in particolare in alcuni casi alla grande distribuzione, in altri al canale, per esempio, della ristorazione delle pizzerie. Lo sviluppo è verso l'export. Per i prodotti italiani del settore food, i mercati interessanti sono molti. Obiettivo: far lievitare la quota del mercato estero dal 5 al 15% ed ampliare le presenze attuali: Spagna, Francia, Inghilterra e Austria, alla Russia e ai paesi dell'est. È un settore in cui individuiamo davvero dei margini di crescita importantissimi. Oggi per noi l'export pesa qualche punto percentuale sul fatturato complessivo del gruppo. Serviamo mercati come la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, l'Austria e qualcosa anche in Germania. L'appeal del prodotto italiano è molto forte all'estero. È chiaro che l'azienda oggi ha le dimensioni che permettono anche di guardare con maggiore attenzione questi mercati, e le energie che anche noi giovani abbiamo in questi anni portato in azienda credo possano contribuire in maniera importante a dare sviluppo a questo tipo di mercati. La crisi economica incide sul settore a due livelli, quello delle materie prime e quello della disponibilità di spesa del consumatore finale. Nel settore lattiero-caseario in particolare, la produzione italiana risente di equilibri internazionali, con una crisi che colpisce il settore e dinamiche europee che si sono ripercosse sulla produzione e sui prezzi. È innegabile che ci siano dei problemi. L'Italia è un paese in costante deficit sul fronte della produzione di latte, quindi siamo importatori di latte dall'estero a livello paese. Noi abbiamo la fortuna di avere una raccolta di latte molto importante nel centro Italia, ma in ogni caso l'Italia nel suo complesso importa latte in maniera molto importante. Peraltro stiamo vivendo proprio nell'anno 2013 direi la più importante crisi sul fronte della materia prima e dei prezzi degli ultimi 20 o 30 anni. Proprio quest'anno si è verificato una dinamica che ormai è diventata globale, perché il latte fino a forse 20-30 anni fa era un prodotto, una materia prima di carattere nazionale. Ormai è diventata una commodities come tanti altri beni, e dunque sconvolgimenti in Asia hanno portato a delle turbative sul prezzo in Europa molto importanti. In particolare paesi come la Francia e la Germania hanno trovato più conveniente polverizzare il latte e esportarlo in Asia piuttosto che venderlo sul mercato locale. Questo ha generato un aumento del prezzo delle materie prime vertiginoso in Europa ed anche in Italia, e questo ha dunque generato per tutte le industrie casearie italiane problemi abbastanza importanti sul fronte della marginalità nel corso dell'anno 2013. Ciò vuol dire, traduco, che i trasformatori caseifici come noi devono necessariamente chiedere ai propri clienti, alla grande distribuzione, ai grossisti, degli aumenti sul fronte dei prezzi, perché ad oggi non siamo nelle condizioni di mantenere i livelli di prezzi precedenti. In una situazione così difficile come quella che l'Italia, ma in generale l'Europa, sta vivendo, con un calo dei consumi, è ovvio capire che è quanto mai difficile ottenere aumenti, ma del resto si è schiacciati in una morsa infernale tra l'aumento delle materie prime e la difficoltà di aumentare i prezzi al pubblico. Simone Mariani è, assieme al cugino Angelo Galeati, amministratore delegato della società ed è vicepresidente dei giovani imprenditori di Confindustria. Lavora, tra l'altro, sulla possibilità per i giovani di sviluppare aziende, con difficoltà diverse, ma probabilmente non minori, di quelle che hanno avuto le generazioni precedenti. Sono certo e conosco tanti giovani imprenditori che hanno la stessa voglia, la stessa energia, la stessa passione, e forse anche, ecco, non so ancora se è un luogo comune quello di dire che poi oggi sia più difficile. Credo che le sofferenze subite anche in quegli anni da parte di chi ci ha preceduto siano state fortissime. È vero che oggi il contesto è particolarmente difficile, la concorrenza feroce, dunque affermare formarsi richiede tanto sacrificio. Abbiamo la forza all'interno anche del movimento dei giovani imprenditori di avere persone motivate, formate, orientate all'innovazione, e questo mi fa e ci fa ben sperare, e dovrebbe dare anche alla nostra classe politica, classe dirigente italiana, la forza per investire di più sulle imprese, sui giovani, per riportare il tema dell'impresa e del lavoro al centro del dibattito nazionale, perché poi credo che di lì si debba passare per tornare a crescere, per tornare a parlare di ripartenza, rinascita del paese, e il PIL si crea in questo modo. Avete ascoltato Voci d'Impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.